con Iris Martín Peralta di Exit Media, che distribuisce il film Carmen y Lola di Arancha Echevarría al cinema da giovedì 27 giugno 2019. Iris, ben trovata. Salve a tutti. Lo descriviamo brevemente questo film? Sì, il cognome tra l'altro della regista è Echevarría, è un cognome vasco perché lei è nata a Bilbao e anche se vive a Madrid da tanti anni. Il film Carmen y Lola è la sua opera prima, è un film che per lei è molto importante, ci ha messo anche un bel po' di tempo perché racconta la storia di un primo amore. In un contesto abbastanza particolare, perché intanto è un primo amore tra ragazze, e questo primo amore si svolge con due ragazze che, a parte magari alcuni ascoltatori tuoi, sanno che in Spagna le comunità di romaní sono stabilite lì da secoli, quindi non sono più nomadi, formano insomma parte del nostro contesto sociale da secoli, e anche se mantengono tuttora una condizione di discriminazione. Quindi lei, insomma, con questo film piazza questa storia di amore in un contesto che chiaramente per le rigide norme che ha a livello di tradizioni si oppone, a che venga consumato, diciamo. Quali sono, a tuo avviso, gli elementi di maggior pregio di questo film? Il film è stato presentato alla Quinzena del Realizzatore a Cannes, ha fatto un giro di festival incredibile in tutto il mondo, ha vinto premi, cioè per citare uno a Torino recentemente ha vinto il Lovers per il festival, quindi è un film che viene targato e osannato in un grande circuito. Chiaramente per noi il merito sempre di quelle opere prime, alla cui, come sai, da Exit Media o Festival del Cinema Spagnolo siamo molto, molto affezionati, è che ha una forza espressiva incredibile. Cioè lei ha usato le due ragazze protagoniste, non sono attrici, e le ha cercate in casting, vedendo, e nessuna ragazza voleva partecipare al film. Ha fatto tantissima fatica, quindi ha cercato per tanto tempo queste due ragazze alle cui finalmente la famiglia ha dato l'autorizzazione per partecipare. Quindi tutto questo, anche tutti i contesti, tutti i genitori, gli amici, tutte le persone che fanno parte nel film, nessuno è attore o attrice, solo una. E quindi in questo caso l'urgenza espressiva trasmessa attraverso questi caratteri che non sono attori professionisti, ma che danno il meglio di sé così come sono, e crea veramente una bomba di orologeria. Senti, Iris, oltre ai festival, ha avuto anche delle uscite all'estero? Sì, il film è uscito a parte della Spagna, in Latino America, in diversi paesi, in Francia ha avuto una uscita non da poco, in Germania, insomma è un film anche che, anche se viene da un circuito di festival, è molto fruibile, diciamo, perché tutti ci possiamo identificare con questa storia di un primo amore, no? È quello che anche diceva la regista quando è stato qua con noi a Roma per il Festival del Cinema Spagnolo, che lei aveva cercato tutto il tempo di ricondurre la storia a un tema universale, no? Chiaramente quello che fa speciale il film è il suo contesto, però lei parlava di questo primo amore come qualcosa di universale, no? Qualcosa che ognuno di noi può ricordare o si può riconoscere. Tipo di uscita sarà, Iris? In quante sale? Guarda, noi siamo molto molto contenti perché il film uscirà in 20 copie, un po' sparse per l'Italia, e anche se insomma già siamo alle porte dell'estate, se non in estate piena, e ci sono tante sale chiuse, il film comunque ha avuto un'accoglienza molto interessante da parte degli esercenti. Ci sono sale da Pordenone a Bolzano, a Bassano, tutta la zona del, diciamo, nord-est, a Torino, e usciamo in tre sale, poi chiaramente Milano, al Beltrade, l'Anteo, a Roma siamo all'Aquila, al Parnese, anche al sud Italia, siamo a Reggio Calabria, siamo a Bari, che come sai sono piazze insomma non semplicissime per i film, che tra l'altro questo film noi abbiamo deciso di non doppiarlo, di proiettarlo soltanto in versione originale, pensiamo che è fondamentale per capire il contesto del film non desnaturalizzarlo e far parlare a queste ragazze che sono così, si interpretano se stesse così come sono, quindi non l'abbiamo doppiato. Ricordiamo l'uscita in sala del film Carmen y Lola di Arancia Echevarría, con Exit Media al cinema da giovedì 27 giugno 2019. Un saluto e un ringraziamento ad Iris Martin Peralta. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto, Iris. Grazie, screpi tutti al cinema anche se fa caldo. Ciao. Ciao.